Radio 24. Libera la voglia di fare. Punizione per Paggio, il cross morbido in mezzo, deviazione, oh! Il pareggio del Brescia, c'è Mazzone che parte, non lo prendono più, Mazzone sotto i tifosi dell'Atalanta, è impazzito. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Risposta bianconera, c'è a Samoa pronto a ricevere. Eccolo il cross, dentro per Cuadrado! La firma di Cuadrado! Dopo 7 minuti la Juventus è in vantaggio, secondo gol in campionato per Cuadrado. Insomma, la Juventus è saltata oltre quella che poteva essere una delle ultime trappole sulla strada del sesto scudetto consecutivo, trappola che in realtà era la combinazione di queste due trasferte, quella di oggi a Marassi, ha vinto 1-0, ora la pausa per la nazionale, quando si torna c'è Napoli-Juventus, gli inguaribili ottimisti, quelli che volevano vedere ancora aperta, ammesso che fosse aperta una corsa per lo scudetto, potevano sperare che la Juventus lasciasse per strada qualcosa qui. E invece a Marassi è passata con gol di Cuadrado, anche se aspetto la voce di Allegri, che ha finito nervosissimo per come Buffon e compagni comunque abbiano concesso tante occasioni oggi alla Sampdoria. Non è stata la migliore Juventus. 800 24 00 24, noi siamo in onda fino alle 19 e io vi aspetto, perché oggi sono tantissimi temi. Adesso sentiremo gli allenatori di questo pomeriggio, Allegri, Inzaghi, che si è fermato con la sua Lazio a Cagliari e forse oggi potrebbe essere una domenica decisiva nella corsa per la Champions League. C'è quello che è successo ieri in questo strano weekend per la Juventus, con Agnelli deferito insieme al club per la vicenda degli incontri con gli ultras, la sospetta infiltrazione di malavitosi nella curva della Juventus. C'è Sarri che si lamenta dell'orario delle 12.30, ha detto che gli fa schifo il Napoli penalizzato perché lo mettono troppe volte a quell'orario, ne parleremo anche con un grande dirigente di calcio. C'è l'Inter di ieri, c'è il Milan, c'è Mino Raiola, che dopo vi faremo sentire che cosa ha detto a proposito dei cinesi del Milan, quelli che stanno cercando di comprare il Milan. Carletto Genta, c'è la Juventus che chiude, credo, definitivamente, anche quel piccolo spiraglio ammesso ci fosse. Chi lo vedeva? Chi lo vedeva più ormai quello spiraglio? Insomma, Giovanni, queste due trasferte potevano rappresentare un momento. Sì, queste due trasferte potevano rappresentare un momento, questa è stata saltata, e quella con la Sampdoria non era una gara banale, perché la Sampdoria è una delle rivelazioni di questo campionato, l'abbiamo detto molte volte, è un campo difficile per la Juventus, un campo sul quale ha festeggiato Buffon, che è diventato primatista, tra l'altro, come minuti giocati con la maglia bianconera tra i suoi 1000 primati, e mantiene la porta imbattuta, decide Cuadrado dopo pochi minuti. Allegri nervoso per non so per quali ragioni, ma è anche difficile assai tenere sulla corda sempre e comunque una squadra che sa di avere il titolo in tasca. Dybala ha avuto un problemino fisico, muscolare, nulla di grave. Vedremo. Perché ovviamente la testa di tutti va al Barcellona, è vero che manca tantissimo. Quindi, insomma, i tifosi della Juventus dovrebbero stare tranquilli, perché manca davvero tanto, e la sensazione è che Dybala, che ha sentito indurire il muscolo della coscia, si sia fermato abbondantemente per tempo. No, Allegri assolutamente nervoso, dopodiché io credo noi dovremo aspettarci, lui stesso per primo, che in queste prossime ultime giornate la Juve non sempre vada a 100 all'ora in campionato. Sì, ma farà i suoi conti, no, Giovanni, come è giusto che faccia, perché se è guadagnato il diritto di fare i conti, può serenamente preparare. Adesso l'obiettivo diventa, ovviamente manca tanto tempo, abbiamo sottolineato, quella sfida con il Barcellona, il campionato come normalmente fa il Bayern di Monaco, come normalmente fanno le grandi in altri paesi, è un capitolo archiviato, e dunque adesso anche la preparazione credo sarà in funzione di quella partita. Tutto il resto diventa mancia, diventa appunto allenamento. Sì, diventa una lunga planata. Vi faccio sentire i primi secondi di Paolo Sosa, che ha vinto ancora una volta al 90° i microfoni di Premium Sport. Oggi ancora una volta, come è stato nella partita precedente a casa, abbiamo creato tantissimo, comunque abbiamo fatto solo un gol, cioè, dobbiamo migliorare la concretezza per tutto quello che noi creiamo, ma comunque alla fine dopo abbiamo meritato questi tre punti. Allora, questo è il primo Paolo Sosa, Juve che, scusate, Fiorentina, che ha vinto al 90° ancora una volta con gol di Kalinic. Saluto per Paolo Marino, ciao direttore. Ciao, buonasera. Allora, la classifica dice Juventus 73, Napoli 63, Roma per il momento 62. Questa sera ore 20:45 c'è la partita col Sassuolo. Io ho detto, se c'era un piccolo spiraglio aperto, oggi si è chiuso, spiraglio che nasceva da questa doppia trasferta Sampdoria-Napoli per la Juve. Se doveva perdere qualche punticino, era adesso il momento. Ma sì, diciamo che sono i pensieri per tenerlo ancora in vita questo campionato, però per la verità dall'inizio non è stato mai in discussione. Poi naturalmente con i tre punti può succedere di tutto, però ed è lecito, fin quando l'aritmetica non dà la conferma, prevedere tutto. Comunque la Juve, anche giocando male, perché oggi non è stata una bella partita, riesce a mantenere le distanze, quindi è più facile che si arrendano gli inseguitori che non la Juventus. Ma secondo te non una bella partita, perché c'è aria di fine stagione, direttore, c'è aria di primavera e di fine stagione da parte della Juve? Da parte un po' di tutti, dai, si avvicinano gli ultimi giorni di scuola, ormai il verdetto è definitivo e la Juventus si concentrerà, io dicevo prima. Però da come si è arrabbiato che... Allegri non mi sembra che fosse una cosa penso che faccia parte della programmazione in vista della non saprei però poi arrabbiato perché tu l'hai capito per i cali di tensione, credo, ma sai, è difficile, e anche per aver lasciato in bilico la partita. Vabbè, sì, giusto curare i dettagli, però non mi sembra, insomma, mi sembra faccia tutto parte del piano. Non è facilissimo tenere sulla corda una squadra che ha 10 punti di vantaggio. No, a quest'ora. La mia non è una critica, la mia era un'espressione di potenza della Juventus, cioè nel senso che io avevo detto, anche quando gioca male come oggi, che non è stata una partita quasi da vittoria di provinciale fuori casa, tra virgolette, no? Eppure quando gioca così mantiene le distanze inalterate, mentre magari alle altre inseguitrici, quando incappano in una giornata del genere, poi la perdono la partita. Quindi era diciamo così un voler confermare la forza della Juve. È la dimostrazione, se servisse un'altra dimostrazione, che la Juve in questo campionato è superiore. Abbiamo il traffico, ci fermiamo, mi tengo ancora per Paolo Marino, cui poi voglio anche far sentire Sarri, che è tornato sulla questione dell'orario delle 12:30, una polemica, io lo dico, secondo me è ridicola, voglio anche sapere cosa ne pensate. 800 24 00 24, traffico. Convocati. Tutti convocati. Voglio anche sapere a chi date l'Oscar della domenica, 800 24 00 24, ma chi lo dai? Ma anche l'Oscar flop. Io lo do a Sarri, ma poi lo spiego, l'Oscar della cosa che non mi sono piaciute. C'è Pierpaolo Marino. Aspettate che c'è anche Allegri, i microfoni di Premium Sport. Hanno fatto credo un bellissimo primo tempo, uno dei più belli dell'annata, sia tecnicamente che a livello di intensità, come occasione a gol. Poi è normale che in una partita non puoi fare 27 occasioni a gol. Il secondo tempo abbiamo avuto qualche situazione favorevole, abbiamo preso qualche contropiede su palla persa nostra, e bastava stare un pochino più ordinati nella fase finale della partita a livello difensivo, senza andare a rischiare più di tanto. Due domande rapide da parte mia su due attaccanti. Dybala come sta e soprattutto che succede a Higuain? A Higuain succede niente, che oggi ha fatto una bella partita, ha lavorato tantissimo, ha corso tanto, sì. Ha avuto occasioni per far gol, non l'ha fatto, ma questo vuol dire che lo farà alla prossima. E Dybala niente, ha sentito indurire il flessore di dietro, era qualche giorno che stavamo gestendolo, però non dovrebbe essere niente di preoccupante. Max, a te. Higuaín che ha fatto un gol negli ultimi 30 giorni su azione, io non so se la Juve si deve preoccupare o meno, lo chiedo anche a Pierpaolo Marino, oppure se può essere fisiologicamente comunque un momento in cui vede poco la porta. Sono quei momenti degli attaccanti, non c'è da preoccuparsi secondo me, perché sono quei periodi che capitano. Anche oggi io vedevo nel primo tempo, è stato anche un po' sfortunato, bravo Guggioni in alcune occasioni, ma lui c'era sempre, insomma. Sì, anche su quell'occasione, Pierpaolo, ti ricordi, su cui è stato segnalato un fuorigioco che peraltro mi pare non ci fosse, sì. E Higuaín si è trovato col piatto, sì. Questa palla sì, a mezza altezza, la sparata alta, per lui è un'occasione facile quella. Sì, assolutamente sì, però sono quei periodi, sai, poi magari ti fanno all'improvviso doppiette e triplette, dietro l'altra, cioè ora su Higuaín non c'è da discutere, c'è solo... Non è un caso. No, c'è solo da portarlo nella migliore condizione possibile alla partita a metà aprile col Barcellona. più o meno a metà aprile. Oh, direttore, ti faccio sentire Sarri oggi dopo Empoli-Napoli, gara che il Napoli ha vinto a mani basse o che chiuse tranne gli ultimi 15 minuti, da 3-0 passato al 3-2. Sarri è arrabbiatissimo, in campo con i suoi per il calo di tensione, e dopo ha tirato fuori un suo vecchio cavallo di battaglia. Ma preferisco partire più lontano, non capisco perché negli ultimi 5 posticipi anticipo a mezzogiorno e mezzo, 2-3 siamo coinvolti noi, un orario a cui nessuno va a giocare. La differenza fra me e gli altri è che io lo dico, che a me fa schifo giocare a mezzogiorno e mezzo e gli altri non lo dicono. Oh, allora io la penso così, io penso che sia una battaglia di retroguardia e che De Laurentiis dovrebbe spiegare a Sarri che dall'anno prossimo i club si accapiglieranno per giocare alle 12:30 sì, per avere visibilità sì, sì, sì, in Oriente e pagare gli stipendi anche di Sarri. Io non so come la pensi tu, direttore. Sta diventando un professionista della scusa, Maurizio Sarri, è dell'alibi. Sì, è da tempo che prima sul calendario, l'anticipo, il posticipo, l'anno scorso vi ricordate, diceva mi fanno giocare prima della Juve, dopo la Juve, non si capiva quando voleva giocare. Poi un grande classico che è uscito anche oggi è quello delle nazionali, che non gli vanno bene, ma le nazionali ci sono per tutti, soprattutto per la Juventus. In questo è un po' provinciale, Sarri, deve migliorare. Poi a questo punto gli auguro di non essere il selezionatore dell'Italia quando ci saranno i mondiali in Qatar, dove lì sugli orari e sul clima che cosa tirerà fuori, non lo so, cosa tirerebbe fuori non saprei. Tra l'altro io vi do due numeri, perché abbiamo sentito Sarri cita anche numeri sbagliati, il che secondo me aggrava la situazione, perché queste sono uscite che evidentemente vengono preparate. Il Napoli ha giocato con questa due partite alle 12:30, esattamente come la Juventus, la Roma, il Milan, la Lazio, l'Inter ne ha fatta una in più, ne giocherà un'altra al Napoli alla 33esima giornata, l'ultima l'aveva giocata alla 16esima, siamo alla 29esima, quindi secondo me si potrebbe sintetizzare tutto con un di che stiamo parlando. Se volete vi do anche i numeri in due stagioni, il Napoli le gioca come tutte le altre, però insomma secondo me al Napoli e a Sarri bisognerebbe chiedere, direttore, un salto di qualità da questo punto di vista. È un grande allenatore ed è assurdo che resti ancorato a queste cose. Sì, assolutamente, in questo è provinciale, dandogli tutti i meriti che ha di quello che è il gioco del Napoli, di quella che è la sua capacità realizzativa che è incredibile. Se pensate che a questo punto il fatto che Mertens da finto 9 sia diventato vero 9 e ha segnato più gol di Higuaín quest'anno, significa che il centravanti della squadra di Sarri è favorito dal suo gioco nell'andare a rete. Quindi tutti i meriti possibili e immaginabili da un punto di vista tecnico, però da un punto di vista comunicativo e comportamentale nel corso della sua comunicazione con l'esterno, mi permetto di dirgli che è un po' provinciale, e secondo me non gli serve dire queste cose, perché non servono né a lui né al Napoli, che il Napoli può andare avanti tranquillamente senza badare all'orario delle partite o al posticipo, all'anticipo, al calendario. Bisogna svestirsi da questo tipo di pregiudizio. Anche perché, come diceva Giovanni, direttore, sono cose che valgono per tutti, no? Me viene in mente subito il derby a mezzogiorno e mezzo che verrà, un salto nel futuro. Poi può non piacere, ma poi è un salto questo nel vale futuro. per tutti i club d'Europa. Ma poi, direttore, è così vero che alle 12:30 non si gioca a calcio? Nel mio periodo dell'Atalanta vincevamo sempre alle 12:30, anche Napoli non va malissimo, il problema è che poi le squadre preparano la settimana tipo quando si gioca alle 12.30, per cui ti alleni alle 12.30, certo. Il giovedì fai la partitella in famiglia pranzando alle 10 e giocando alle 12.30. Mi pare che giocammo a quell'ora anche una finale mondiale col Brasile a Stati Uniti 94. Quello era un discorso diverso, e quello fu un omicidio calcistico. Ma certo, appunto, a maggior ragione lo sto dicendo, a Pasadena si giocò all'ora di pranzo. Oggi a Empoli si poteva giocare, su, così come a dicembre si poteva giocare a Cagliari, dove ha giocato l'ultima volta il Napoli. Grazie direttore. Ciao direttore. Ciao, arrivederci. Saluto Tony Damascelli, ciao Tony. Ciao a tutti. E non so come la pensi te sul calcio alle 12.30. Segno dei tempi. Mi vuoi fare un'altra domanda, per favore? No, mi interessa sapere cosa ne pensi. Io la penso che sono d'accordissimo. Domanda. Mi fai un'altra domanda. Sai come le chiamava Brera queste cose? Masturbatio grillorum. Pugnette, sì, ne avrei detto. No, grillorum, masturbatio grillorum. Ma ormai gli allenatori sono diventati tutti attori, sono tutti diventati master coach. Dovrebbero interpretare questo nuovo ruolo anche in televisione, in qualche reality show, sono tutti, però Spalletti ieri avete visto, ha dato lezioni deontologiche oltre che etiche. Sì, io devo dire, l'ho trovato fortemente maleducato, lo dico, me ne assumo la responsabilità, sì, non ho nessun problema. L'aggettivo giù, un cafone, ma un cafone anche sgrammaticato, perché pensa da certaldese di frequentare la lingua italiana, però a parità di sintassi non può dialogare con nessuno. E Sarri, Allegri, vabbè, il problema delle 12:30 farà schifo, però lo pagano. Cioè, non so se il giorno in cui De Laurenti dovesse pagarlo alle 12:30 andare a ritirare il denaro. Adesso ovviamente sto facendo un paradosso, una provocazione. Tra l'altro De Laurenti è stato qualche settimana in Cina, un paio di mesi fa, giustamente per cercare di aprire per il Napoli quei mercati. Io non so se lui è contentissimo che il suo allenatore gli dica che alle 12.30, che è l'orario per essere visibili là, non gli piace. Qualche istante di Simone Inzaghi, Premium Sport. L'ultima partita, che ha messo in campo tutto quello che aveva. Noi potevamo sicuramente fare meglio, però insomma abbiamo avuto due palle che secondo me potevano essere sfruttate meglio. Parlo del primo tempo sul piazzato, sul colpo di testa di Hut, poi la palla di Felipe Anderson, però insomma al di là di quello si poteva far meglio, però ci portiamo a casa questo punto. Sicuramente eravamo venuti per fare bottino pieno, però insomma a volte bisogna rispettare anche l'avversario. Il Cagliari ha fatto, a parer mio, una grande partita e ha meritato il pareggio. Tra l'altro Lazio che si è fermata, come l'Inter, sì, quarta e quinta una giornata in cui si rafforza la posizione del Napoli, certamente nella corsa da Champions League. Vediamo quella della Roma, che con questi chiari di luna e che con questo Spalletti cafone maleducato, comunque sempre sull'orlo di una crisi di nervi, e che da Roma dicono la squadra non sopporti più, insomma non se la porta da casa con il Sassuolo, secondo me. Tony. No, stai chiedendo me? No, è una considerazione, Tony, te la butto. Guarda, lì. No, bisogna giocare. La Juventus oggi ha giocato a Genoa una partita che avrebbe potuto gestire meglio, e nel secondo tempo la giocato in una maniera orribile. Perché? Perché il calcio, per fortuna, è questo, no? Cioè, in una partita, non in un torneo da 30 partite, da 38 partite, ti può smentire. Se non sei concentrato, se accade il fatto imprevisto, se perdi un uovo durante la stessa partita. Quindi la Roma stasera affronta il Sassuolo, poi Spalletti andrà in conferenza stampa e parlerà agli sfigati e spiegherà perché la sua squadra ha vinto, perché la sua squadra ha pareggiato oppure ha perso, e magari si consolerà anche lui con la Stotti Trieste. Oh Tony, io voglio approfittare di te per farti dire che cosa ne pensi anche di quello che è successo ieri. Ti faccio sentire la parte di Agnelli che riguarda, per la prima volta ha parlato insomma di passo indietro, anche se per negarlo, ed è un rumor che da un paio di mesi gira molto forte. Questo Agnelli ieri. So che alcuni di voi si sono esercitati nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, ad ipotesi di cambiamento del management Juventus. Mi spiace deludervi, ma questo gruppo dirigente, formato dal sottoscritto, da Marotta, dal vicepresidente Nedved, dal direttore sportivo Fabio Paratici, ha intenzione di continuare a far crescere la Juventus ancora per parecchio tempo. Allora Tony, cosa pensi, cioè qual è il titolo, la sintesi che facciamo 36 ore dopo? di questa vicenda, che ha due piani di lettura. Per quanto riguarda quest'ultima frase, è una come dire, una dichiarazione doverosa che lui ha dovuto fare per tutta la società che lui gestisce, di cui lui è presidente, tant'è che qualche minuto dopo è arrivata la conferma di questa fiducia da parte di John Elkann, che mai si era espresso in questa... Questo dimostra che la Juventus è un monolite da questo punto di vista. La Juventus è un'azienda ed è anche una società di football. Le due cose vanno insieme a Torino, per chi conosce quell'ambiente. Vanno molto insieme. C'è una parte che è importante. Quando una parte dell'intervento di Agnelli ieri, quando lui parla dei diversi esperimenti fatti sulla pelle della Juventus, tentativi, esperimenti fatti sulla pelle della Juventus, io ho scritto appunto nei giorni passati che è singolare quello che sta accadendo in questa vicenda, che viene, l'indagine si chiama Alto Piemonte, attenzione, perché tra l'altro inizia questa settimana il processo, sì, che nel resto d'Italia invece non esiste questo fenomeno della criminalità collusa al calcio. Sappiamo benissimo che l'unica zona che è quella di Torino, al punto che Pecoraro, attuale procuratore federale, ex prefetto di Roma, basta andare a consultare gli archivi, nell'agosto del 2013, queste non sono parole mie, sono parole anche del presidente del Senato Grasso, dichiarò ufficialmente che non esistano, a suo giudizio, alcuna infiltrazione o presenza mafiosa a Roma. Poi sappiamo quello che è accaduto. Poi sappiamo, Pecoraro, che è anche quello della serata, la famosa serata tragica del 3 maggio 2014 allo Stadio Olimpico di Roma, Jenni a Carogna. Trattativa che lui ha sempre negato, e quindi noi insomma ci fidiamo anche di quello che ha sempre detto Pecoraro, scusate, in tempi non sospetti. Ragazzi, ma queste mi sembrano cose, Tony, che sono come i discorsi sull'acqua calda di prima di Sarri, che si gioca alle 12:30. Lo sappiamo tutti. No, questi però sappiamo, possiamo anche dire che ci fa schifo giocare alle 12:30. Possiamo, se lo dice il procuratore ex prefetto di una città, esatto, della capitale, la cosa è preoccupante. È molto preoccupante, molto preoccupante. È un po' diverso, è molto preoccupante. Poi il presidente della Federcalcio o il presidente della Lega dicesse ci fa schifo giocare alle 12:30, uno dice: ma come, scusa, sei tu che decidi queste cose? L'aspetto surreale è che si scopra oggi, ieri, che le società sono ostaggio degli ultras, che c'è un appunto, giro di biglietti, è lì che volevo arrivare. Il bagarinaggio nasce da lì. Lì che volevo arrivare, cioè al fatto che ogni società è ostaggio di alcuni ultras, sì, che hanno, e ci sono delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle curve di tutte le società italiane di calcio, punto. Sì, no? Esatto, bravissimo, però il problema è questo, che cosa accade nelle altre città, per le altre società, partite nelle quali abbiamo visto a bordo campo? Ma secondo te c'è un disegno contro la Juventus, che è una delle tesi che gira insomma in questo momento? A queste tesi complottistiche non credo assolutamente, non ci credevo al tempo dell'abuso di farmaci, non credevo nel caso di Calciopoli. Il discorso è un altro, è capire perché, come per Tangentopoli, c'è una giustizia molto giusta, feroce, una giustizia giusta nei confronti di un settore, e una giustizia che ogni tanto si distrae nei confronti di altri settori. È un po' quello che accade nel mondo della finanza. Si dovrebbe applicare lo stesso rigore nei confronti dei bilanci e delle situazioni finanziarie di alcuni club. E invece vedo che c'è un'allegria, non so se in maniera ungaratiana. No, forse c'è il timore di dover prendere delle misure radicali. Ma quale timore? Poi altamente impopolari. Un giudice non deve avere timore. Un giudice non deve avere timore. No, parlo della questione dei bilanci e di chi dovrebbe far rispettare certe regole. Secondo te, se uno trucca un bilancio, deve partecipare? Deve star fuori. Prova ad entrare, deve star fuori. Al casinò con i soldi falsi. Al casinò, ho detto, e quei soldi falsi, poi vedi come va a finire. Tony, ti saluto e ti ringrazio. Va bene, io ringrazio voi. Tony. Buona domenica a tutti. 800 24 00 24, il traffico, quando torniamo c'è anche più Luigi Pardo. Tutti convocati. Convocati. Abbiamo un obiettivo che è esagerato per la posizione in classifica in cui siamo, e quindi ogni vittoria mancata è un passo falso. Malgrado non fossimo nella nostra migliore serata, c'è rammarico e rimpianto, perché le occasioni nel finale potevano darci comunque la vittoria, per la volontà e per il carattere e per lo spirito che comunque la squadra è riuscita a mettere sul campo anche stasera. Ma siamo meglio sicuramente, ma c'era serenità già prima. Io vedo, ripeto, una squadra che sta portando avanti un discorso, è lotta piena per l'Europa, stanno facendo i ragazzi veramente un grande campionato, stanno dimostrando sempre qualcosina di più. Noi dobbiamo fare il nostro dovere, pensare alla nostra partita, alle nostre partite, al nostro cammino e ai nostri miglioramenti. Poi se facciamo questo arriviamo in Europa League a prescindere di chi saranno le altre. Queste due settimane adesso per la doppia sfida contro la Juventus, in una città come Napoli, come si preparano? Perché sono comunque tante due settimane di attesa. E si prepara a briscole 21, perché si rimane in 4 o 5 ore, quindi sì, non si prepara. Fortunatamente c'è una partita così, così importante e bella da giocare, che perdiamo solamente un po' di lavoro tattico, perché a livello mentale penso in questa occasione non ce ne sia bisogno. Briscola 21, così si prepara la doppia sfida Napoli-Juventus. Questa è sì. Copyright di Maurizio Sarri. Aspetta, fammi salutare Pier. Ciao Pier. Ciao Pierino. Ciao. Dammi il tuo Oscar della domenica, dai. Un amico scrive: Montella, domenica insomma della giornata, Montella per il coraggio nelle scelte dei titolari di ieri, per le motivazioni che è capace di dispensare. Un altro scrive: Insigne, che forse è pronto per prendere per mano il Napoli e diventare il capitano la prossima stagione. Non so, tu chi voti? Ma è una domenica, è un weekend di risultati abbastanza scontati. Sarebbe facile adesso parlare della nostra schedina, anche lì il risultato è stato scontato, ma non cominciamo subito. Allora, così. È già deciso. Però io non sono d'accordo, tanto scontati no, perché se la quarta e la quinta in un campionato in cui vincono tutti si fermano. Insomma, qualcosa c'è. Allora si può dare, dare a Cagliari l'Oscar della giornata. Il risultato secondo me più sorprendente è la Lazio che si ferma con Cagliari. Tra l'altro mi pare graziata all'ultimo minuto da calcio di rigore per il Cagliari, sì. Abbastanza Cagliari, mi confermi, un buon momento. L'ho visto con la coda dell'occhio, Pier, però anche il pareggio dell'Inter è un pareggio abbastanza sofferto. Anche se avrebbe potuto vincere alla fine, Sicuramente avrebbe potuto vincerla, ma altrettanto sicuramente, però insomma, io penso che abbia fatto una partita non esattamente all'altezza. Inter ha questo problema, è poco che ci abbiamo di prima, che comunque è una stagione in salita. In una stagione in salita inevitabilmente ogni passo falso, ogni piccola disattenzione la paghi. Oggi, soprattutto chiaramente, Pier, l'Inter non ha il destino nelle sue mani. Cioè, il destino dell'Inter è nelle mani di una Roma che tu commenterai stasera, che io sono curioso di vedere, perché mi sembra un momento difficile per la Roma per molti motivi, momento di grande nervosismo, un momento in cui potrebbe anche succedere patatrac, una partita che come piace, ma non lo so, sono curioso di vederlo. Credo che non sarà porti da casa, come dici tu. Sì, credo che questa giornata insomma tolga Lazio e Inter, che potevano essere le due squadre di rincorsa un pochino più in condizione, la possibilità concreta, meno di miracoli, di puntare per la Champions League. Poi c'è un Lazio-Napoli in arrivo, il Napoli è un calendario complicato, differente di quello della Roma, che in questa fase è un calendario più semplice. Io la Lazio non la considero ancora fuori dai giochi, però questi due punti pesano tantissimo. La Roma io non credo, io penso che se la Roma vinca, credo che sicuramente non è la fase più positiva della stagione, ma il calendario aiuterà la Roma a rimettersi in qualche modo in carreggiata. Sì, Roma che ha Sassuolo ed Empoli in casa, Bologna fuori, Atalanta in casa, Pescara fuori, poi vabbè c'è il derby, il Milan, la Juve. Poi ci sono un po' di problemi alla fine, appunto derby, Milan e Juve, però insomma io credo che Roma possa arrivare a 4 5 giorni alla fine a distanza di sicurezza, se mai deve recriminare con certezza, perché ha buttato via un obiettivo stagionale e a meno di miracoli butterà via anche la Coppa Italia, perché rimontare 2-0 in casa con la Lazio non è facile. Per farcela ci vuole la partita perfetta. Saluto Riccardo Ferri intanto. Ciao Riccardo. Ciao, ciao, buon pomeriggio. Ciao. Ci hai dormito ciao. Su dopo ieri sera, che riflessione ti viene in mente sull'Inter che hai visto a Torino? Ma se non è stato un Inter brillante, un Inter aggressivo per tutti i 90 minuti, probabilmente nella testa dei giocatori c'era questa pressione di dover vincere a tutti i costi, e dall'altra parte c'è stato un Torino sicuramente in partenza magari poco brillante, ma via via, quando l'Inter si è allungato un attimo e ha passato un po' il ritmo, è uscita con la mentalità del Torino che solitamente ha nelle proprie mura, e magari un po' meno in trasferta, però devo dire che tutto sommato il risultato mi sembra abbastanza giusto. Ma si è chiusa qui la corsa Champions per l'Inter, forse, ma anche guarda, per la Lazio? Se avesse vinto la fiammella, una piccola fiammella, sarebbe stata ancora accesa. In questo momento la vedo come una mission impossible, perché davanti ci sono squadre che indubbiamente non mollano un centimetro, nonostante qualcuna di queste abbia dei problemi anche all'interno della società, di gestione e via dicendo, ma la vedo un'impresa difficile. Io credo che alla portata dell'Inter, come per l'Atalanta, anche per lo stesso Milan, ci sia indubbiamente, e la Lazio, ci sia sicuramente questi posti in Europa League, che insomma diventa un finale di campionato interessante. Per tra l'altro, sì, perdonatemi, tanto una sta fuori. Cioè, dal quarto posto della Lazio al settimo del Milan, una sta fuori sicuramente dall'Europa League. Una sta fuori senz'altro dall'Europa League. Attenzione, però mi pare... perché chi arriva sesto si rovina l'estate. E io credo che se Pioli dovesse andare da Suning a spiegargli che non si può andare in Cina perché deve fare il preliminare di Europa League, diventa un problema. Avrebbe qualche problemino, ma non per, non per il preliminare in sé. Sì, io dico niente di nuovo sul fronte del campionato, nel senso che ci sta che l'Inter pareggi a Torino, così come ci sta che la Lazio pareggi sul campo di un Cagliari che è in un buon momento. Il fatto è che ormai da tempo la rincorsa dell'Inter, e a rincorrere si fa sempre più fatica, no? È come andare in bicicletta contro vento, è come dover tirare il gruppo, lo stavamo dicendo ora, ma vale a maggior ragione, insomma. Il futuro dell'Inter non è nelle mani dell'Inter. L'Inter può anche vincerle tutte da qui alla fine, però se davanti continuano con questo ruolino, vediamo stasera la Roma, non le becchi più. No, è vero, però è vero, prego. Anche che ci sono gli scontri diretti, c'è lo scontro diretto con il Milan, la trasferta, il scontro diretto non diretto ma comunque importante con il Napoli. Lo scontro diretto l'Inter l'ha sbagliato con la Roma. Il problema dell'Inter è quello. No, capito, quello con la Roma sì, però voglio dire, poi l'altro scontro l'ha stravinto con l'Atalanta. Io metterei poi in fila, c'è ancora il derby con il Milan, la trasferta a Roma con la Lazio, quindi un po' di partite ancora che possono riaprire e dare ancora un po' di possibilità, non certo per la Champions League, questo no, l'abbiamo detto sin dall'inizio, insomma, diciamo però che Pioli ha fatto un lavoro straordinario indipendentemente da tutto. Abbiamo il traffico, poi dopo io approfitto di Riccardo. Quante partite hai fatto con la nazionale? Con la nazionale 45. 45. Tu Pier? Con qualche nazionale, non dico. Ne ho fatte 45 meno di Riccardo. Ecco. Più o meno esattamente 45 meno. Anche noi esattamente 45 in meno. No, però dopo approfitto di Mister 45 presenze, perché a proposito di Inter e non solo, mi voglio togliere una curiosità. Traffico, torniamo subito. Tutti convocati. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta. Tutti convocati. In larga parte in nazionale, anzi la sosta era una delle motivazione di grande difficoltà della partita, perché venire a giocare con 13-14 giocatori hanno la valigia a macchina e non è mai il massimo. Infatti nelle due occasioni in cui abbiamo giocato in precedenza delle convocazioni nazionali avevamo fatto un punto solo in due partite. Questo Sarri, oggi scatenato. Scatenato nello scaldare, sì. Pentoloni di acqua. Aspetta, fatemi chiedere a Riccardo Juventus Ferri che qualche partita Riccardo Ferri l'ha fatta con la valigia in macchina per andare a rispondere alle convocazioni della nazionale. 45. Non ti chiedo il bilancio, quante ne hai vinte, quante ne hai pareggiate, quante ne hai perse, no, ma insomma, credo. Volevo sapere cosa ne pensi e poi anche l'Inter che porta 4 giocatori in nazionale, che segnale è? Perché in tanti oggi hanno detto, beh, insomma, c'è un cambio epocale. Beh, intanto l'ultima domanda, io credo che conferma che Pioli ha fatto un lavoro straordinario, porta 4 giocatori che grazie anche all'apporto, all'arrivo di Pioli, hanno ritrovato autostima, consapevolezza nei propri mezzi e hanno raggiunto dei traguardi importanti. Per quanto riguarda la valigia, l'abbiamo avuta tante volte anche noi, è vero, questo atteggiamento può essere un atteggiamento che può influire un po' sulla testa dei giocatori, ma soprattutto quando non ci sono grandissime motivazioni e quando arrivi magari dalla perdita di un obiettivo importante, come del resto il Napoli ha perso nell'ultimo periodo perdendo la doppia sfida con il Real Madrid. Sì, quindi però, questo è un atteggiamento che però è tante piccole cose. È un problema che hanno tutte le grandi squadre europee. Alla Juventus, a Napoli giocheranno a 3-7, alla Juventus giocheranno a scala 40, da un'altra parte giocheranno a scopone scientifico, però è la stessa cosa. Per quanto riguarda l'Inter non avrà avuto nazionali italiani, ma aveva nazionali stranieri. Una volta giocavo io d'anticipo, adesso mai ho perso lo spunto, mi hai preso d'anticipo, quindi stavo dicendo la stessa cosa. Detto questo, quello che ha evidenziato Sarri è il problema che hanno un po' tutti. Ma a me sembra che si stia un po' piangendo addosso nell'ultimo periodo e mi sembra un po' l'atteggiamento, secondo me, poco produttivo per il gruppo. Io credo che Napoli è stata una grande espressione del calcio quest'anno, ha fatto vedere grandissime cose e ha divertito molto, no? Indipendentemente dalla sconfitta. Ha dato modo di pensare che questa è una squadra che ovviamente può crescere, può diventare veramente, veramente più forte quello che è. Quello che mi è piaciuto di Sarri è quando ha evidenziato la cosa che noi diciamo da un po' di tempo, io soprattutto sin dall'inizio, che non è una squadra che non sa gestire. Lui dice quando la squadra inizia a gestire il vantaggio, inizia a gestire il gioco, diventa passiva. Ecco, questa è una cosa su cui l'allenatore deve lavorare, perché indubbiamente sia in Italia che in Europa tu devi saper fare le due fasi e sapere anche gestire e magari smorzare un po' i ritmi come fa la Juve. Pier? Ma guarda, allora, su questo difetto del Napoli oggi si è visto in maniera più accentuata quello che si era visto ad esempio a Verona contro il Chievo. Cioè, spesso questa squadra ha delle pause di rendimento, di concentrazione, ed è la differenza che esiste tra queste due meravigliose inseguitrici e la Juve. Cioè, al di là di tutto, del fatto che la Juve ovviamente ha più fatturato, ha più botte in gaggio, quindi è normale che si sia davanti, non è che sia uno scandalo. Però se lo dobbiamo vedere invece dal punto di vista tecnico, la grande differenza è soprattutto questa, della concentrazione, della capacità di tenere sempre comunque mentalmente anche l'eliminazione della Roma in Europa League, è arrivata per degli errori di deconcentrazione, per una mancanza di attenzione sulle palle inattive, il gol sanguinoso concesso all'Olimpico. Insomma, sì, anche la Juventus oggi, secondo Allegri, ha fatto il part-time, ha giocato un grande primo tempo, poi nel secondo tempo però non ha subito gol, ma infatti su Sarri sono d'accordo con Riccardo, io penso che sia un grande allenatore, o meglio sia un bravissimo allenatore. Per diventare un grandissimo allenatore a livello europeo, partendo dal posto che ha cominciato tardi, non è che sia colpa sua, quindi sicuramente bisogna dargli un po' di tempo per abituarsi a certe situazioni e a una certa difficoltà nella gestione, e quando dico gestione di tutto, gestione dell'ambiente, gestione dei giornalisti, gestione delle polemiche, gestione degli arbitri, gestione... Tanti giornalisti sono degli sfigati, Pierluigi. Ma a parte questo, dai, no. Però dopo ne parliamo, Pier. Dopo il GR delle 18 voglio sapere cosa ne pensi. Secondo me è il tema, cioè, il voto a Sarri in campo per me è un voto vicino alla perfezione. Il voto a Sarri nella gestione di alcuni aspetti collaterali che ci sono vicino all'imperfezione può crescere, ma lo dico in maniera costruttiva, con grande simpatia e con grande stima. Sì, però adesso sono quasi 2 anni che è lì, cioè... Ma non è che stia andando male, sta andando molto no, bene, no, dal punto di vista, no, però nell'altro aspetto è quasi 2 anni, insomma, l'apprendistato l'ha fatto. Sicuramente sì. E comunque non si possono allenare perché hai giocatori con la valigia in macchina. Sentivo prima Cuadrado che dorme a casa di Muriel. Sì, Cuadrado dorme a casa di Muriel, il grande appuntamento della serata. Esatto, partono tutte e due per dietro l'angolo, no? Per la Colombia, per l'altra parte del mondo dove andranno a giocare in nazionale. Questi sono problemi che sono problemi tutti grossi. Grazie Riccardo. Grazie a voi. Grazie a Riccardo Ferri. Ciao, Riccardo Ferri. Oh, Fiorentina che ha vinto ancora l'ultimo minuto, tra l'altro è uno dei grandi scandali di questa domenica. Beh, poi spiegheremo perché. A proposito, intanto buonasera. Sì. A proposito di Muriel, Giacando, e di Cuadrado, sì. Anche la mia amica Natasha dorme sempre da Muriel e no. Da Cuadrado. No. E quindi devo salutarli perché sono dei bravissimi calciatori. Beh, io sono piuttosto amareggiato, sono piuttosto avvilito, perché? Sono piuttosto perplesso. La squadra ha reagito, però avrebbe dovuto attaccare di più e quindi non possiamo essere contenti. Però, insomma, avete vinto e quindi ancora una volta all'ultimo minuto. Tra l'altro rovinando la mia schedina, ma ne parliamo dopo. Chiedo scusa, noi abbiamo pareggiato 0-0. No, Giancarlo, è finita 1-0, ha segnato Kalinic al 90esimo. Ha segnato. Oltre il 90esimo. Ha segnato, sì, ha segnato sì. Kalinic. All'ultimo. Sì. Perché mi sono allontanato qualche secondo prima del fischio di chiusura. La palla ce l'aveva il Crotone, figuriamoci. No, è finita così, quindi, è finita 1-0. Avevo visto queste facce tutte attapirate negli spogliatoi e mi sono detto questi hanno pareggiato. Beh, ma perché sanno il danno che hanno fatto. Sono su scherzi a parte. No, no, no, Giancarlo, è così. Siamo sullo 0-0. No, è finita 1-0, sanno il danno che... Però adesso... Ti rivelo due retroscena. Sì. Allora, Capuano ha perso la schedina perché ti fa sì. Il Crotone. Ti fa il Crotone, lui sta tifando per tutte le squadre che possono rimontare l'Empoli, che secondo lui è ancora in bilico. Ti rivelo queste due perversioni. E c'è Andro Mercù che porta al collo un medaglione che è perché è diventato cavaliere del tartufo e dei vini di Alba. Hai capito? È importante, capito che salutare... persone trascorrono la domenica. Ma è una gioia. Ma neanche neanche ne ha portato un pezzo. No, però c'è il GRS. L'ultima cosa, saluto anche Luca Virago che era ospite di Pino Insegno prima della trasmissione, sì. Quindi saluto pure lui e Natasha. Va bene, sempre dai. C'è il GR, torniamo dopo parliamo. Ciao, di Agnelli, il deferimento, la Juve. E poi di Mino Raiola, vi facciamo sentire Mino Raiola cosa pensa davvero dei cinesi che stanno comprando il Milan. E di Natasha. È stato notificato un deferimento da parte della Procura federale. Nei mesi scorsi i dipendenti della Juventus hanno collaborato con la Procura della Repubblica di Torino in veste di testimoni. Questa veste di testimoni è stata sottoposta ad un controllo invasivo. Tutto ciò è inaccettabile. Tutti convocati. Tomlinson, good morning. Ça va, vous qui nous écoutez chez vous à la maison? Bonjour, Julie. Bonjour. Aus l'antirassistische Netzwerk Sachsen-Anhalt. 24 mattino di Alessandro Milan. Ma dove eravate finiti? Il Parlamento è aperto ogni giorno dalle 6.30, caffè, brioche e giudizi in libertà. E alle 7.20 vi leggo i giornali gratis. Alessandro Milan, il boss dell'informazione. Vi aspetto, è dal lunedì al venerdì. E siccome la carta costa, scopriremo anche l'articolo più inutile del giorno. Ma chi se ne frega! Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno e Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19.15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Ricominciamo tutti ai vostri posti! Convocati. Il giorno successivo, ieri mattina, è uno di quei giorni dove ti alzi e hai la sensazione di aver perso tutto, di avere il dubbio se accendere la lucina quando vai in bagno oppure no, di rimanere al buio, di non avere quasi più niente in mano in quel momento lì, perché è una sconfitta che ti dà fastidio, ecco, che bruci. Io non non sono sfigato. La sfortuna non può togliermi niente se non il risultato di una partita. Il livello è quello lì. Secondo me la fortuna e la sfortuna ha una connessione con il sudore. E io sudo di molto, mi impegno di molto, per cui sono fortunatissimo, sta tranquillo. Guarda, sono a fare l'allenatore della Roma. È un lavoro da sfigato, fare le psicoanalisi a me tutti i giorni. Mi vedo un tantino in difficoltà. Tant'è che oggi avete chiesto anche l'aiuto all'artiglieria pesante, avete mandato agenti sotto falso nome a vedere poi che luna ho oggi. Poi non ce l'ho fatta a leggere tutta la rassegna stampa perché erano talmente tanti oggi, ma non vi prometto che poi durante la settimana mi metto... Ora io Dio che mi fa? Oggi non trovo il mio articolo. Quello che fa l'articolo non viene oggi, viene a porta dopo. A me, a volte invece gli articoli sportivi mi sembrano oroscopi. Allora, questo Spalletti ieri 800 24 00 24, anche noi schieriamo l'artiglieria pesante, no Pier? Per cercare di capire perché deve andare in rottura così con tutto l'ambiente romano. Un po' maleducato, bisogna dire la verità, rinfacciare gli altri di fare un lavoro sfigato perché lui fa l'allenatore della Roma, ma questa è una mia opinione personale. Prego Pier. Che so io l'artiglieria pesante, siamo messi bene. Devo dire la verità che io ci ho capito poco. Quello che è certo è che Spalletti è un grande allenatore che ha fatto il bene della Roma sicuramente, al di là di al netto di qualche scelta che poi magari non sia stata perfetta, come quella ovviamente nella settimana lì di Lazio Roma e di Roma Napoli, e magari nel primo tempo di quel Gerson che è schierato la sfida scudetto contro la Juve, insomma, gli errori fanno tutti. Anche Roma-Porto non benissimo come scelta, Sì, anche se poi alla fine, secondo me, Roma-Porto nelle due partite ci sono proprio delle responsabilità individuali di giocatori che hanno fatto delle follie, si sono fatti buttare fuori. Questa è secondo me il tanto gol del Palermo a Udine, prego. Attenzione, Palermo, attenzione, gol del Palermo a Udine, prego Pier. Aspetto Baccaglini. Quindi questo è il punto di partenza. Spalletti è stato un grande solo un allenatore che ha migliorato, ha aumentato le performance. La Roma lo scorso anno, se avesse probabilmente cambiato allenatore prima, sarebbe arrivata seconda, ma insomma lo dicono i numeri, lo dice la tendenza. Poi certamente ci sono delle cose caratteriali che io non capisco. Ma tu hai capito con chi ce l'ha? Cioè, qualcuno mi aiuta, Carlo, a capire con chi ce l'ha. Io vorrei sapere perché ce la deve avere con qualcuno. E vorrei sapere, perché a memoria non ci arrivo, quando è stata l'ultima conferenza stampa normale di Spalletti, che una volta gli chiedono il suo contratto risponde di quello di Totti, una volta dice che i giornalisti mandano le spie, un'altra che sono degli sfigati, e ogni volta ne tira fuori una. Mi domando soprattutto perché. Qual è la ragione di questo malumore, di questo malessere, di questa perenne situazione e stato di incazzatura di Spalletti? Ce lo chiediamo in tanti. Io chiaramente non frequento tutti i giorni Trigoria, vivo a Milano, non seguo le conferenze stampa, cioè le seguo dai giornali, le seguo dalle dirette televisive. Personaggio enigmatico, è anche seducente nel suo essere, no? Complesso. Lo scorso anno non ci dimentichiamo che stravinse la battaglia sul tema Totti, nel senso che riuscì a normalizzare Totti, a fare in modo che Totti diventasse una figura ovviamente unica nella storia della Roma, ma al servizio della squadra e al servizio del risultato. Alla fine, secondo me, lo scorso ha avuto ragione lui. Poi Totti è stato enorme nel come si è proposto con la squadra, con l'allenatore, in quello che è riuscito a dare quei pochi minuti nei quali veniva impiegato. Insomma, è stata una win-win, è stata una vittoria collettiva lo scorso anno. Quest'anno probabilmente qualcosa sta cambiando secondo me in queste ultime settimane, da un lato perché la sconfitta contro il Lione è una sconfitta pesante, perché è il primo vero capolinea della stagione e il secondo è molto probabile, ed è in Coppa Italia contro il Lazio. È molto doloroso, se dovesse anche accadere. Esatto, e si stanno secondo me allentando un po' si sta un po' sbragando. È una storia probabilmente finita. Io mi chiedo anche facevamo prima discorso su Sarri, a proposito adesso c'è Leonardo da Cremona 800 24 00 24. Vi chiedo anche se Spalletti facendo così faccia il bene della Roma. Un mese fa la Roma ha chiamato a raccolta giornali, giornalisti di Roma per chiedere sostegno, pressione, appoggio nel momento decisivo per lo stadio della Roma. Poi il tuo tecnico un giorno sì, un giorno no, ti attacca anche sul piano personale, che secondo me è peggio ancora che quello professionale, no, Pier? Sì, sì. Insomma, no, io vorrei sapere cosa ne pensa Pallotta, ad esempio. Sarebbe bello si pronunciasse. Ma non ne pensa, ben poco. Insomma. Poi esce con la storia degli SMS che Pallotta gli ha fatto vedere quando lo ha convocato a Miami. Insomma, ogni volta ne tira fuori una diversa, Spalletti. Io però voglio dirti una cosa. Premesso che l'ambiente di Roma certamente non è un ambiente facile, cioè tutti gli allenatori che ci sono passati hanno sottolineato due elementi. Da un lato la bellezza. Cioè, Roma è sicuramente un luogo dove fare il calciatore, fare l'allenatore ti dà un'adrenalina. Sei coccolato da una passione, da un affetto che c'è in pochissimi altri luoghi, in questo senso è molto simile a Napoli, però questa quantità di affetto probabilmente in certi momenti, lo sappiamo, diventa pressione, diventa quindi una difficoltà in più sulla strada. E non so dirti francamente se però questi aspetti di Spalletti lo aiutino, e parlo dal presupposto, parlo di lui, non parlo della Roma, parlo di lui e della sua carriera. Stiamo parlando veramente di un grande allenatore dal punto di vista tecnico, secondo me. È un allenatore veramente straordinario. Sì, Pier, incompiuto livello. A livello di bacheca, perché poi in Italia due Coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Coppa Italia di Serie C. Ti faccio non ha ancora allenato la Juventus. Visto che non è che si deve allenare la Juventus attenzione, a proposito di Juventus, visto che se ne parla tanto, io non so nulla e non credo che ci sia niente tra la Juve e Spalletti in questo momento, no? Però ecco, queste uscite qui non so se lo aiutano, non so dirti, nel senso che non so se sono sarebbero in linea, no, con un ambiente che invece si tiene a essere estremamente asettico, estremamente tranquillo, dove non si va mai fuori dai binari, e questo alla fine funziona, perché so che la Juve funzioni, non ci sono dubbi. Quindi io non so dirti dal suo punto di vista se la conferenza stampa di ieri lo abbia aiutato oppure no. Sì, se a Torino l'abbiano apprezzata o no. Che lui possa avere dei giornalisti romani ai quali non è simpatico, questo è evidente. Però insomma, secondo me un grande allenatore deve volare un po' più alto, anche perché l'uscita di ieri è un po' sgradevole. Insomma, non stiamo a fare. Decisamente no. Sgradevole, lo diciamo senza farci grossi problemi. Leonardo da Cremona, Leonardo. Sì, volevo intervenire su Sarri. Dai. Niente, volevo dire, ma è possibile che per Sarri non è mai colpa sua quando perde dei punti con le squadre inferiori al Napoli, o quando perde con la Juve, o perché gioca a mezzogiorno, o perché faccio presente che loro hanno giocato a mezzogiorno quanto ha giocato l'Inter, il Milan, la Roma, no, la Juve, in realtà una partita in meno dell'Inter, però allora che cosa ha sempre i numeri li abbiamo dati prima e dice mai no è stata colpa mia ho registrato male la partita, mai colpa sua. Ha lì una squadra che è fortissima, che E difatti al momento è seconda, terza in classifica. Non è un allenatore da Napoli. I numeri, Leonardo, dicono una cosa diversa. I numeri, è quello che si è in campo. Un allenatore da Napoli è una fortuna del Napoli. Però ecco, in qualche modo c'è un'analogia con il discorso che stavamo facendo su Spalletti, no? Premesso che è logorante, questo vale per tutti e due, vale per queste due società, per queste due squadre meravigliose che sono in corsa da anni e che cercano di prendersi dei trofei. Fanno fatica perché ci sta il cannibale lì davanti che non molla nulla, quindi non è facile essere Roma e Napoli in questi anni, perché fai un grande sforzo, perché combatti, fai più di 80 punti con meno strumenti rispetto alla Juve, perché ovviamente hai meno budget, riesci a combattere molto bene, grandi cose, e queste grandi cose però raramente portano a dei trofei, anzi non ti ci portano mai, se parliamo di scudetto. Quindi è una situazione, è famoso il potere logora chi non lo ha, no, di Andreotti, è un po' questa roba qui secondo me, cioè che alla lunga poi tutta questa fatica che viene fatta porta nei momenti magari più difficili un pochino a sbragare, sempre tornando al tempo all'accezione di prima, e non è molto diverso di quello che facciamo su Spalletti prima, So, sicuramente Spalletti avrà delle idee in testa che noi in questo momento non sappiamo, ci può stare come ragionamento di chi lo vede lontano da Roma, certamente lo strappo di queste ore, anche quello che aveva detto dopo la conferenza stampa con Lione è abbastanza abbastanza in linea con tutto questo. Però, ripeto, allora, che Spalletti sia in rottura prolungata con l'ambiente di Roma mi sembra abbastanza chiaro. Vi devo fermare, mi spiace perché siamo in ritardissimo sul traffico, e quindi adesso diamo il traffico, poi tanto andiamo avanti, arriva Maurizio Crosetti, parliamo anche delle vicende della Juve. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Mi è stato notificato un deferimento da parte della Procura federale. Questa società, i suoi dipendenti e il sottoscritto non hanno nulla da nascondere o da temere. Nei mesi scorsi i dipendenti della Juventus hanno collaborato con la Procura della Repubblica di Torino in veste di testimoni nel quadro di un'indagine riguardante alcuni personaggi legati al mondo della criminalità organizzata. Questa veste di testimoni è stata sottoposta ad un controllo invasivo con l'uso di intercettazioni ambientali e telefoniche. Tutto ciò è inaccettabile ed è frutto di una lettura parziale e preconcetta nei confronti della Juventus e non rispondente a logiche di giustizia. Non ho mai incontrato boss mafiosi. A cadenze regolari, come noto, ho incontrato tutte le categorie di tifosi. È sempre stata un'attività fatta alla luce del sole. Se alcuni di questi personaggi hanno oggi assunto una veste diversa agli occhi della giustizia penale, questo è un aspetto che all'epoca dei fatti non era noto. E queste persone erano libere e non avevano alcuna restrizione a frequentare lo stadio o partite di calcio. La Juventus collabora con lo Stato ed è stata negli anni scorsi indicata come esempio virtuoso, ma non può certamente sostituirsi alle forze dell'ordine. Mi difenderò, difenderò i nostri collaboratori e soprattutto difenderò il buon nome della Juventus, che per troppe volte è già stato infangato, sottoposto a curiosi procedimenti sperimentali da parte della giustizia sportiva. Tale difesa avverrà nelle sedi opportune. Signori, vi invito fin d'oggi ad approfondire con grande attenzione le tematiche di un'inchiesta che ha visto curiosamente scomparire dalla scena mediatica gli accusati di reati mafiosi per essere sostituiti da testimoni che hanno l'unica colpa di lavorare in una società molto famosa e sulla bocca di tutti. So che alcuni di voi si sono esercitati nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, ad ipotesi di cambiamento del management Juventus. Mi spiace deludervi, ma questo gruppo dirigente, formato dal sottoscritto, da Marotta, dal vicepresidente Nedved, dal direttore sportivo Fabio Paratici, ha intenzione di continuare a far crescere la Juventus ancora per parecchio tempo. Allora, questo è un riassunto delle parole di Agnelli di ieri. Maurizio Crosetti, ciao. Buongiorno a tutti. Ciao Maurizio. Eccoci. Oggi tu scrivi che è interesse di tutti e quindi anche di Agnelli cercare di fare chiarezza su che cosa succede intorno al mondo del calcio, che evidentemente è un mondo dove ci sono tantissime contraddizioni. Scrivi anche che molti dirigenti sono stati quantomeno disinvolti o poco accorti, e io credo anche Agnelli, al di là, e lo abbiamo detto prima, che pensiamo che non si scopre oggi che le società di calcio sono ostaggio degli ultra, che non sono personcine spesso con cui è facile trattare. Vorrei sapere qual è la riflessione che fai te il giorno dopo. Ma io sinceramente, come ho scritto su Repubblica questa mattina, credo che sia quasi più un diritto che un dovere la chiarezza per Agnelli e per tutti quelli che si spera non vogliano più avere a che fare con queste intermediazioni di criminalità organizzata, di delinquenza comune. Non si tratta poi di sapere con esattezza qual è la fedina penale dell'interlocutore che è davanti, certo questo è molto importante. Si tratta di rompere totalmente quei lacci che però ti tengono legato mani e piedi, spesso sotto ricatto. Dopodiché non capisco perché qualcuno in Federcalcio dovrebbe versare con la Juventus o perché la Procura federale dovrebbe avere una visione preconcetta. E francamente non capisco nemmeno quali sarebbero stati questi curiosi procedimenti sperimentali. Io spero, voglio sperare che Agnelli non si riferisca di nuovo ancora una volta a Calciopoli, alle sue sentenze, per non fare un mischione. L'unica cosa da evitare è il concetto di giustizia a orologeria nei confronti della Juventus. Questo sgombriamo subito il campo. Però l'idea è che non succeda solo a Torino, che ci siano rapporti, fra virgolette, incestuosi, che ci sia questa situazione di ricatto perenne, e questo insomma è una cosa che è nei fatti, chi gira per gli stadi lo sa. È un sospetto, ma no, è un sospetto che, che in qualche caso magari la magistratura, che fa un lavoro, sappiamo, difficile, complicato e rischioso, riuscirà. Io mi scusami, è molto più che un sospetto. In questi anni abbiamo avuto addirittura gli ultra in campo che chiedevano interruzioni di partite, magliette, no, ai giocatori. Io parlo, ti parlo del tu parli della Juve? Ok. No, io ti parlo del fatto che ci possano essere all'interno dei gruppi ultra dei rapporti con organizzazioni di stampo criminale. Questo è il punto fondamentale, del passaggio fondamentale. Poi che ci sia, l'abbiamo detto in tante situazioni, un potere eccessivo di condizionamento, questo è un elemento, diciamo, culturale che è certamente sbagliato. Però qui si parla di una cosa diversa, si parla del fatto che ci siano delle persone. Poi quello che dice Agnelli è molto semplice, no? Io ho incontrato i tifosi, ho incontrato tutte le categorie dei tifosi, e nel momento nel quale li ho incontrati non ho incontrato i pregiudicati. Cioè, come dire, vi faccio delle foto con delle persone, perché le faccio con mille persone, le incontro perché sono rappresentanti di un certo tipo di diritti. E poi queste persone nel frattempo diventano, agli occhi della magistratura, che fa ovviamente un lavoro complicato, un po' meno rispettabile, qualcosa di diverso. Quindi questo qui è un ragionamento che ci sta e che è completamente in piedi. Io credo ci sia un tema complessivo che riguarda tutti, che riguarda in questo caso Agnelli, che riguarda tutti quelli che vengono in qualche modo sottoposti a un'inchiesta, che vengono indagati, che è un concetto culturale. Cioè, noi in Italia siamo abituati da sempre a considerare un avviso di garanzia nell'immaginario come l'equivalenza di una condanna, poi 9 volte su 10 nei 3 gradi di giudizio. In molti casi non si va nemmeno oltre, e in qualche caso si va oltre, nel senso che c'è un procedimento, ma c'è una soluzione. Questo secondo me è il tema, è un tema culturale molto importante. Poi sono d'accordo con te che non capisco, francamente, cioè, mi sembra strano immaginare un accanimento della giustizia sportiva italiana contro la Juve. Cioè, non ne vedo il motivo, non vedo il momento. No, questo è certamente un tema, però la riflessione che io facevo ieri, leggendo anche il dispositivo del deferimento e insomma le parole di Agnelli, mi è tornata in mente invece l'intervista di Morgan De Santis, quando raccontava dell'agonia dei giocatori della Roma sotto la curva dopo l'eliminazione dell'Europa League contro la Fiorentina, e diceva: beh, insomma, basta ipocrisie, non è che a noi piace l'agonia. Poi spesso ti portano lì gli agenti perché bisogna gestire l'ordine pubblico. Lo stesso Pecoraro all'epoca di Jenny La Carogna disse: non mi scelgo certo io gli interlocutori della curva. E insomma, io non riesco mai a capire da dove si deve cominciare poi per cercare di rescindere questi legami, no Maurizio? Beh, ma se tu rescindi questi legami, poi devi sapere che giri con la scorta per 10 anni, perché questo è il discorso. Cioè, Agnelli non è così ingenuo, e nemmeno noi lo siamo, da pensare che quando lui incontra non qualsiasi club di tifosi, ma i tifosi intermediari, quelli che garantiscono possono assicurare la pace, diciamo, sociale o non sociale all'interno di una curva. È ovvio che questi personaggi tu non puoi sapere se sono dranghettisti, mafiosi o dei semplici pregiudicati o anche degli incensurati ma delinquenti, perché c'è anche questa categoria, però uno non può saperlo, ma non puoi nemmeno cascare dal pero e farci credere che se tu hai bisogno dei capi della curva per non aver casino, per non avere squalifiche, per non avere fumogeni, per non avere diffide, per non avere minacce, con questi ti devi rapportare. Ma se tu provi a fare il muro contro muro, poi fai la fine di Lotito, che avrà tanti difetti, però ha girato per secoli con la scorta e forse ce l'ha ancora. Quindi indubbiamente è vero, ha ragione Agnelli, una società di calcio non può sostituirsi alle forze dell'ordine e alla magistratura, questo no. Però certo che fare muro nei confronti dei delinquenti poi alla fine è un grosso problema anche di vita quotidiana per chi ci prova. E quindi io capisco queste società sotto ricatto, ma finché non comincia qualcuno a rompere proprio con l'accetta totalmente questi legami, pagandone anche il prezzo, mettendo anche in conto di pagare un prezzo, continueremo a raccontarci la favola che quelli in fondo sono solo dei tifosi un po' scaldati, e noi in fondo abbiamo anche bisogno che non succeda casino nel nostro stadio. Ma non basta questo. Sì, poi ci ritroviamo a bordo campo nei derby appoggiati ai cartelloni pubblicitari, magari a Napoli, dove me lo sono sognato io, o sono successi degli episodi di questo tipo. E poi va a sapere chi ce li ha messi lì, no? Chi comunque ha permesso di andare lì. C'è un'inchiesta, questa inchiesta ovviamente quella della magistratura ordinaria va avanti. Cioè, secondo me l'atteggiamento più culturalmente più corretto è semplicemente quello di far fare ai magistrati il proprio lavoro e poi di giudicare quello che verrà fuori. Cioè, questo mi sembra il tema. Quanto alla tematica del rapporto tra gli ultra, io non generalizzerei, però sicuramente ci sono delle situazioni patologiche e dovrebbero essere risolte. Però in questo capisco la difficoltà delle società. Tu hai citato l'esempio di Lotito, che sicuramente, insomma, al netto di altre cose discutibili, qui ha avuto un approccio più coraggioso. Anche Galliani ha avuto qualche problema. È andato no? un po' dritto, perché Galliani c'è credo un'inchiesta che aveva raccontato qualcosa di abbastanza simile a livello di tentativi di estorsione, in quel caso con il Milan come vittima, diciamo. Grazie Maurizio. Ciao Maurizio, grazie a voi, ciao, buona domenica. Oh, allora ci pigliamo 30 secondi prima di salutare il carissimo Luigi Pardo, che lasciamo a Roma Sassuolo ore 20:45. Intanto il Palermo vince sempre a Udine, 31 minuti 1-0, gol di Sallai, ed è anche andato vicinissimo al raddoppio. Il Palermo, per dire che il gol di Kalinic al 90esimo ha fatto vincere a Pierre la nostra sotto, sfida dai, settimanale. Siamo 5-3, giusto, no? Sì. Così poco? Sì. Siamo 5-3. Siamo 5-3, mancano due partite. Questa la stiamo cannando tutti e due. Roma Sassuolo. 6-4, 7-5. Così sarà. Comunque, il 7-4. Quale, adesso siamo in ritardo. Salutiamo Pierre. Altra vittoria netta. No, si conferma la mia assoluta capacità di individuare le partite chiave. Perché io sbaglio, Milan-Genoa dove avevo dato l'X ed è partita molto sofferta, e Crotone-Fiorentina dove ha dato l'X e il Crotone non meritava di perdere. Ciao Pierre, a domani. Ciao. Che competenza, eh. Torniamo subito. Questi cinesi del Milan non li conosco, non posso giudicarli, non ho mai incontrato nessuna di queste persone, non ho mai parlato né con Fascione né con altre persone che fanno parte del loro gruppo, ma quello che stanno facendo fino adesso stanno solo facendo una figura di M. Tutti convocati. Tutti convocati. Questi cinesi del Milan non li conosco, non posso giudicarli, non ho mai incontrato nessuna di queste persone, non ho mai parlato né con Fascione né con altre persone che fanno parte del loro gruppo, ma quello che stanno facendo fino adesso stanno solo facendo una figura di M. Non mi sembra una situazione, diciamo, da parte, diciamo, sul piano pubblicitario molto positivo. Poi si entrano e fanno delle cose importanti, io lo spero per il Milan. Io personalmente non ci credo. Ho il mio diritto di non crederci, io non ci credo. Allora, questo è Mino Raiola, ieri in diretta a Radio CRC di Napoli, che ringraziamo per averci girato l'audio. Franco Ordine, ciao. Eccomi qua, buon pomeriggio, anzi quasi buonasera. Buonasera. Ciccio, la parafrasi è: Donnarumma lo porto via? Beh, la parafrasi mi sembra quella, non subito, perché non credo che ci siano le condizioni per farlo subito, né credo che ci siano le condizioni per farlo a costo zero, ma è evidente che c'è una, diciamo, devo dire francamente che in questa circostanza, al di là della espressione, diciamo, che come dire, elegante, che si addice al personaggio, colorita. Dal punto di vista sostanziale, Raiola ha perfettamente ragione, obiettivamente. Scusami, i cinesi stanno facendo di tutto per consumare credito, per mettersi in cattiva luce, a fischi e pernacchi. Ma sì, sapessimo chi sono. Secondo te Franco, quanto rimane aperta questa porta di Mino Raiola verso un ipotetico futuro del Milan, per capire se c'è il progetto, se ha un senso tenere Donnarumma? Io penso diciamo fino a quando, tanto per scontato che il 7 aprile o dentro o fuori, cosa che non è scontata, sì, perché la dicevamo il 3 marzo, la dicevamo... Vabbè, comunque, adesso diciamo, diamo per scontato questa seconda data. Se dovesse esserci questa data, rispettata questa data, è evidente che tra il 7 aprile e i successivi passaggi capiremo... se questi sono in grado di mantenere Donnarumma oppure no. Io lo ripeto per l'ennesima volta, l'ho già detto proprio a tutti i convocati: se non sono in grado, dopo aver speso una fortuna per comprare il Milan, di tenere Donnarumma, è meglio che non lo comprano, perché verrebbero presi a fischi e pernacchi appena mettono piede a San Siro. Non si può cominciare così. Io però ho un sospetto, siccome Mino Raiola raramente risponde al telefono e parla a caso, io sospetto che la dichiarazione di ieri in qualche modo avvii le grandi manovre anche dal suo punto di vista, perché sai tu cosa succede se il 7 aprile i cinesi diventano padroni, 20 giorni prima hai detto quello che abbiamo sentito, che ovviamente è bruciante come definizione. Se non succede, insomma, il Milan di oggi e degli ultimi anni è quello che abbiamo sotto gli occhi e probabilmente non è il Milan che è in testa lui per Donnarumma. Ma guarda, io ti dico invece francamente un'altra cosa. Nel caso in cui non dovesse esserci il closing, dovesse saltare l'affare e il Milan tornare saldamente nelle mani di Berlusconi e quindi di Gagliani, io do per scontato un accordo sul rinnovo, che non vuol dire blindare a vita Donnarumma, ma vuol dire tenerlo almeno altri 2 o 3 anni. Sì, però al di là di Donnarumma bisogna vedere quale scenario si profilerebbe in quella situazione che ritengo la più probabile per il Milan, perché non credo che Berlusconi, vabbè che si terrebbe i 200 milioni che gli hanno incredibilmente regalato questi fantomatici signori cinesi, che pensa che botta di culo, cioè come per noi girare per strada e trovare per terra 200 euro appena esci, no? Sì, più o meno. Però non riesco a immaginare lo scenario di un Milan competitivo rebus sixtantibus. Beh, scusami, non competitivo in questo momento. Allora, facciamo uno scenario che Milan raggiunge l'Europa League. Sì. Alzi la mano chi aveva giurato in una classifica di questa. Nessuno motivo per cui Montella merita una statuetta dell'Oscar. È certo. Quindi, punto primo. Punto secondo, io non penso che sia così complicato e così dispendioso procedere a un rafforzamento del Milan attuale. Cioè, bastano, non ci vogliono 800 milioni, bastano 2-3 acquisti azzeccati nei posti giusti. E quindi già questo ti fa capire che comunque non potrai passare eventualmente dall'Europa League allo scudetto, ma potrai passare dall'Europa League eventualmente alla Champions. Che vuol dire passare dal quinto, sesto posto al quarto, perché l'anno prossimo si gioca per il quarto posto, per la Champions League. Questa è una cosa che posto, tutti si devono tatuare sul braccio, testa, dove vogliono. Sono convinto del fatto che l'Inter sarà una grande Inter, farà una grande estate. Sì, sulla carta Inter, Roma, Napoli, Juventus... probabilmente partiranno davanti. Partiranno davanti e quindi siamo alla situazione di quest'anno, grosso modo, no? Tanto ha pareggiato l'Udinese, 42esimo minuto ha segnato Terò, gran gol dal limite dell'area. Prego Franco. No, io penso questo, poi eventualmente ne possiamo riparlare dopo il 7 di aprile, però insomma non è così complicato e poi penso un'altra cosa. Le esperienze del passato hanno dimostrato che per la costruzione delle grandi squadre va fatta a piccoli passi. Allora, vi faccio un esempio che è sotto gli occhi di tutti. La Juve di Conte, che vince lo scudetto al primo anno con Conte, era arrivata settima 2 volte negli anni precedenti. E non è che avesse preso Messi o Cristiano Ronaldo. Quindi questo, secondo me, è già come dire, un dato che ci può aiutare a capire quali possono essere eventualmente, soprattutto mantenendo naturalmente un allenatore come questo il cui lavoro proprio odora di cura dei dettagli e valorizzazione di tutte le risorse. E ieri sera, tra l'altro, mi è piaciuta una cosa nel finale che credo sarà piaciuta moltissimo dalle parti di Ascore, quel giro palla a cui tanto pensa spesso Berlusconi quando si tratta di dover difendere il vantaggio streminzito. Per evitare che ce l'abbiano gli altri, creino problemi, che è uno dei mantra di Silvio Berlusconi. Grazie Franco. Ciao, Franco. Saluti, un abbraccio. Ciao. Grazie Franco. Ordine Antonio dalla provincia di Monza e Brianza. Caro Antonio, Terò ha fatto un gran gol, sì, l'hai visto Giovanni? Ha fatto destro un gran dai 25 metri. Destro dai 25 metri, ma ha fatto 2 passi camminando e l'ha piazzata dove voleva. Grandissimo gol. Direi che però una difesa seria, magari un passo verso Terò lo fa o no? Sì, Giovanni, è vero, però sbaglio. È anche vero che quando a 25 metri un attaccante ti prende con quella forza l'angolino e poi diventa anche più una prodezza del giocatore che un errore di chi gli sta davanti. Antonio, prego. Buonasera, grazie per la convocazione. Ho 2 pensieri. Vai. Mi avete fatto. Uno su Spalletti. Allora, Spalletti, quando è arrivato alla Roma, ha sgombrato il campo da ogni dubbio sulla pressione dell'ambiente romano, non voleva questo alibi. Ora, per me è chiaro Spalletti cosa vuole comunicare. Lui comunica col presidente. Il presidente gli avrà promesso, quando l'ha ingaggiato, di costruire una squadra vincente, oppure di dargli una mano. Qualcosa a gennaio non ha funzionato, perché in previsione degli scontri ravvicinati con Napoli, con la Lazio e con Lione, gli è arrivato solo Grenier, il francese, a centrocampo. Lui aveva probabilmente richiesto qualcosa quando Salah era andato a fare la Coppa d'Africa. E lui, secondo me, parla per enigmi, per sms, non so come, ma parla col presidente Pallotta, non ce l'ha con nessuno. Lui vuole sicuramente il bene della Roma. Il segretario invece va al signor Agnelli. Non so se lo sta facendo. Prego però, Antonio. Sì, concludo. Invece Agnelli, non so se ha parlato lui o gliel'hanno scritto il discorso, però quando sento testualmente che la magistratura ha fatto un'azione invasiva nelle sue azioni con intercettazioni ambientali, cioè invasiva e vuole... No, però perdonami Antonio, questa te la spiego io, perché è anche il concetto che ha spiegato in maniera molto più ampia l'avvocato della Juventus Chiappero davanti all'antimafia. Cioè la spiegazione è... dirigenti della Juve, tesserati, dipendenti coinvolti in questa cosa, da testimoni sono stati a lungo intercettati prima di essere nuovamente sentiti da testimoni e sono rimasti comunque testimoni, il che significa che per la magistratura non si era avvisato nulla, nemmeno con il controllo fra virgolette invasivo delle intercettazioni ambientali e telefoniche, quindi non di dichiarazioni ufficiali davanti a un magistrato con un avvocato e così via. Questa è la spiegazione di questo passaggio difensivo della Juventus. E quindi dice Agnelli, se questa è la valutazione dei magistrati della Procura di Torino, che sicuramente non sono stati teneri nei nostri confronti, non si capisce perché da testimoni si debba passare sul banco degli imputati per la giustizia sportiva. Questo per chiarezza e per spiegare questo passaggio. Grazie comunque Antonio, abbiamo il traffico. Carlo, a domani. Ciao Giovanni, a domani. Dopo il GR delle 14, ciao, torniamo ciao, subito ciao. Milano Sanremo e rugby. Convocati. Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta. Tutti convocati. Agli ultimi 300 metri si vede il traguardo di Via Roma, ecco Sagan con Kwiatkowski e Alaphilippe, parte adesso costretto a lanciare uno sprint lunghissimo, Peter Sagan prova a rientrare, mica Kwiatkowski, poi Alaphilippe con Peter Sagan che è sempre davanti, Peter Sagan e poi la testa a testa con Kwiatkowski, rischia di subire un'altra beffa Peter Sagan, perché forse lo ha bruciato proprio sul traguardo Michał Kwiatkowski. La lucidità del fuoriclasse slovacco finale. È andato immediatamente a complimentarsi con Michał Kwiatkowski che vince. Finale di ieri hanno vinto in due, Pier Augusto Stagi. Kwiatkowski va sull'Albo d'Oro, quell'altro Peter Sagan resta nei cuori. Assolutamente, io credo che ieri anche chi non è appassionato di ciclismo e ha avuto la possibilità di buttare l'occhio anche un televisore per vedere le fasi finali palpitanti della Milano Sanremo è rimasto colpito da questo finale d'autore. Tre grandi corridori, perché anche Alaphilippe è un ragazzo alla sua prima partecipazione, alla sua prima Milano Sanremo, corridore francese di grandissimo livello, che ne sentiremo parlare nei prossimi anni, assolutamente di livello mondiale, però c'era lì il campione del mondo, la maglia ridata, Peter Sagan, il vincitore di 90 gare, ha solo 27 anni, 72 secondi posti, e ieri purtroppo ne ha ottenuto un altro, quando ormai sembrava ormai fatta. Un giorno l'altro la vincerà, un giorno l'altro la vincerà. Guarda, hanno fatto fatica nella storia del ciclismo e nella storia della Milano-Sanremo, ci sono grandissimi corridori o che non l'hanno vinta. Io vi cito un grandissimo cacciatore di classiche che ha vinto veramente il Giro delle Fiandre, ha vinto Frecce Vallone, ha vinto 4 Liegi Bastogliesi, si chiama Moreno Argentin, bene, non ha mai vinto la Milano-Sanremo. E poi ci sono corridori di livello assoluto, tra i più grandi corridori italiani di tutti i tempi, come Francesco Moser e Beppe Saronni, che prima di riuscire a vincere una Milano-Sanremo ci hanno piegato un'eternità. Saronia ha fatto 3 secondi posti consecutivi, è stato battuto anche da Pier Mattia Gavazzi, ha dovuto veramente masticare a mano. È una gara difficile perché sembra banale, sembra semplice, sembra elementare, ma proprio nella sua semplicità nasconde mille insidie. E soprattutto, come ieri, è una gara, non è come dirlo, 291 chilometri, controvento, 7 ore e 8 minuti di corsa. Quando tu arrivi lì a 200 metri, ti alzi sui pedali e sprigioni i tuoi watt, quello che resta dentro le tue gambe, dentro il tuo cuore, dentro il tuo cuore, solo lì, solo in quel momento scopri quanto vali, quello che ti è rimasto, la benzina che ti è rimasta, non lo puoi sapere prima, e quindi lì vieni fregato. Sagan aveva fatto un capolavoro sul Poggio, quando molti osservatori da anni dicono il Poggio ormai fa solletico, non è più in grado di far selezione, bisogna avere i grandi corridori. Ieri Sagan, quando è partito sul Poggio, li ha lasciati lì tutti sul posto, e dietro di lui sono andati solo due fuori classe, che sono Michel Kwiatkowski, che magari il nome è assolutamente complicato, complesso, però è uno vero, è uno vero, e tra l'altro capace anche di mandare in crisi il talento di Sagan, perché lo ha fatto ieri. È uno che ha vinto un mondiale a Ponferrada 3 anni fa, è uno che ha vinto un Amstel Gold Race, è uno che ha vinto le Strade Bianche, una gara molto giovane, ma secondo me da inserire già tra i monumenti del ciclismo, perché è una gara pazzesca, bellissima, che si conclude in uno scenario unico e irripetibile come Siena, e ha vinto 15 giorni fa. Quindi si è vinto le Strade Bianche, la Milano-Sanremo, e adesso a tutti gli effetti Michel Kwiatkowski va considerato un grandissimo, anzi uno che potenzialmente può vincere tutti i 5 monumenti del ciclismo. Vediamo se questa sarà la sua stagione. Grazie per Augusto. Grazie a voi, buona serata. Grazie per Augusto Staggi. A proposito d'Italia, non ha funzionato l'Italia nella Milano-Sanremo, perché siamo stati soltanto comprimari. Ha funzionato malissimo l'Italia del rugby. Giacomo Bagnasco, ciao. Ciao, ciao. Effettivamente direi, Giovanni, meno che comprimari, perché questa formazione è arrivata a 0 punti nel campionato in cui per la prima volta sono stati introdotti anche i punti di bonus. Quindi bastava una volta riuscire a segnare 4 mete, impresa non facile per l'Italia, o perdere con meno di 8 punti di scarto per avere almeno un punticino in classifica. Invece non è successo, l'Italia ha finito a 0 punti con la peggiore differenza punti di sempre dal 2000 a oggi adesso, meno 151, con uno scarto medio per incontro di 30 punti al passivo, quando la media degli altri 10 incontri fra le altre squadre ha fatto registrare un passivo di 10 punti, e insomma c'è. Siamo all'anno sotto zero, Giacomo. Siamo a un anno zero. No, sotto zero. Ma diciamo zero perché c'è un allenatore nuovo, quindi gli si può concedere qualcosa e bisogna per forza proseguire con lui. Certo, ci sono questi aspetti veramente negativi. Il 63-10 in casa con l'Irlanda è la peggiore sconfitta di sempre interna dell'Italia, il 29-0 di ieri contro la Scozia è la peggiore sconfitta subita nel 6 nazioni dall'Italia nella Scozia contro questa avversaria, e ci sono stati tanti fattori, anche la giornata negativa di un calciatore solitamente affidabile come Canna, che ha sbagliato, invece si direbbe accannato, ecco, naturalmente viene il gioco di parole, 3 calci su 3. Però su questo non c'è molto da insistere, perché avrebbe semplicemente limato la figuraccia. E poi la giornata negativa di un calciatore capita a tutti, a tutti i livelli, anche ai migliori di sempre. Grazie, Giacomo. La situazione è questa. Ciao, grazie a voi. Grazie Giacomo Bagnasco, con cui abbiamo fatto il punto sull'Italia del rugby. Paolo da Modena. Pronti? Eccoci. Ciao. Mi risparmio solo per una piccola cosa. Io sono un dirigente di una squadra di dilettantistica, giochiamo in seconda categoria, abbiamo il settore giovanile. Non più tardi di un mese fa, per i 2001, quindi parliamo di ragazzi di 16 anni, giocavamo in casa noi, è arrivato un genitore ubriaco, ha fatto l'impossibile nelle tribune, gli abbiamo chiesto di allontanarsi, non c'è stato verso, ha cominciato a dare dei cazzotti a destra manca. Non avendo fatto niente noi, 2 partite a porte chiuse, 1.000 euro di multa noi, e 1.200 all'altra squadra, che ovviamente era dispiaciuta, ma nessuna delle due poteva fare nulla, secondo me. Questo è uno spaccato, bisogna... Paolo, del calcio nostro. Poi ovviamente quando si va tra i professionisti in grandi club che muovono interessi da decine di milioni di euro, evidentemente poi tutto viene ingigantito, però il tema è che le società sono spesso nude davanti al comportamento più o meno delinquenziale, voluto, ricattatorio dei propri tifosi, e questo purtroppo è quello che è. Grazie Paolo. Grazie Paolo da Modena, noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Valeria Bernardi e Roberta Frisani, che si sono alternate in regia, Andro Mercù. Buonasera, con le buonasera, sue voci. Capuano. Arriva la fine, il closing? Sì, facciamo il closing prestissimo. Quando? Questa settimana, la prossima? Diciamo che potrebbe anche succedere, come dicevamo, il primo aprile. Potrebbe anche succedere, invece, anzi, succederà sicuramente il primo aprile. Succederà sicuramente, che noi ci risentiamo domenica alle 17. Esatto. Ciao. Va bene, hai visto? Allora, questa è la cosa, no? Che almeno una risata se la siamo fatta.